si può fare di Laura Bettini e con Carlo Gabardini. Buongiorno di nuovo a tutti gli ascoltatori di Radio 24 e buongiorno anche a te Carlo, come stai? Bene, sto bene, buongiorno Laura, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, direi che sto bene, ma sì, ho da poco letto la notizia che esce il nuovo romanzo di Don DeLillo che uscirà ad ottobre. Si intitolerà The Silence e quindi sono molto contento. Bene, vedi, cioè, ci sono sempre novità anche quando uno si alza al mattino presto del sabato, trova sempre qualche motivo per gioire poi esatto. Alla fine. È una buona notizia questa. Allora, oggi è giorno di quiz, quindi chi vuole indovinare, partecipare ai nostri quiz deve chiamare l'800 24 00 24. Abbiamo una bella raffica di nuovi libri per voi da spedirvi, per allietarvi durante le vostre vacanze, magari in spiaggia, magari in montagna, momenti per leggere ce ne sono sempre. E poi c'è il 349-238-6666 per i vostri sms e whatsapp con i quali commentare, diciamo, i temi di cui parliamo, ma anche presentarci altre questioni sulle quali potremo andare magari prossimamente, no Carlo? Certo, assolutamente, anzi sia per commentare sia per fare domande in diretta possono scriverci e poi noi leggiamo sempre molto volentieri. Io leggo solo gli sms perché sono ancora confinato a casa per questa trasmissione, quindi leggo solo gli sms e non i whatsapp, quindi se volete insultarmi direttamente conviene l'sms, ma se no va bene anche se invece ce l'avete con me whatsapp, se invece ce l'avete con me esatto, ma ce li leggiamo anche, quindi sappiate che nelle pause, nel caso comunque Laura, se arrivano degli insulti anche su WhatsApp, di solito mi tiene aggiornato ed è sempre divertente. Soprattutto è molto divertente chi dice oggi siete proprio inascoltabili e di solito lo dice 7 minuti prima che iniziamo, cioè quindi prima che abbiamo parlato, prima che abbiamo ancora detto qualche cosa. Sai, c'è gente che prevede il futuro, prevedono il futuro. Esatto. Senti, io volevo chiederti una cosa, oggi sulle pagine della stampa leggevo un articolo che recita così, il titolo dice già un po' tutto: dalla frenesia del lavorà alla vita slow, Milano costretta a un bagno di umiltà. Dopo anni di primati, di trionfalismi, bla bla bla, tutto quello che sappiamo di Milano, turismo a parte, qualche segnale di ripartenza si vede, però ci sono ritmi più lenti. Allora tu, che sei veramente milanese, non come me che faccio il pendolare avanti e indietro e quindi conto poco, sono un giargiana, potresti dirmi se è vero, se te la senti un po' così questa nuova Milano? Guarda, da milanese, mentre leggevi questa cosa, io subito mi sono preoccupato e quindi direi che è chiara la risposta, nel senso che è subito una preoccupazione, direi, più slow, come, in che senso? No, non è possibile, perché direi che proprio un po' da DNA questa cosa ci preoccupa, abbiamo la sensazione sempre di non fare abbastanza e quindi non lo so, non credo che sia ancora stata assimilata, può essere che questa sia l'occasione buona invece per rallentare sul serio, ma non mi sembra passata, ecco, non mi sembra assolutamente digerita. È più un fatto, vabbè, se adesso siamo obbligati però poi vediamo, ecco. Poi vediamo, c'è un po' la sensazione invece di essere sui blocchi di partenza. Va bene, allora magari gli ascoltatori potranno dirci A, se sono milanesi come la vedono. Giusto. E B, invece, come la vivono nelle loro città, perché insomma un'idea di slow magari si è diffusa anche altrove, non è che necessariamente dobbiamo parlare di Milano, possiamo parlare di questa lenta ripresa post-Covid nelle altre città italiane. Giustissimo. Tu che buone notizie, diciamo, ci porti in questa settimana? Guarda, ho pensato che la buona notizia per i comici è che è tornato Di Battista, che twitta: volete la regolamentazione della cannabis? Evitate di farvi selfie con una canna in mano, sono gesti infantili e controproducenti. Ricordano coloro che pretendono di ottenere un miglioramento dei diritti civili per gli omosessuali esibendosi in volgari forme di trasgressione durante i gay pride. Questo è il tweet di Alessandro Di Battista. Ora, non so se sia più stupida la prima affermazione o più offensivo il successivo paragone, ma di certo sulla cannabis ha fatto, diciamo, vomitare nella tomba il buon vecchio Pannella, che diceva: le leggi vanno avanti se tu nella società imponi il dibattito. E soprattutto ricordiamo al non giovane, non più giovane Di Battista, che l'immagine del famoso spinello di Pannella ha cambiato la legge in questo paese. Ma quelli erano politici. Per quanto riguarda le volgari trasgressioni degli omosessuali, ecco, proprio oggi, 27 giugno, cade il 51esimo anniversario dei moti di Stonewall, che da New York segnano la nascita del movimento di liberazione gay moderno in tutto il mondo, e quindi dei Pride. Per fortuna questi coraggiosi, come la transessuale Silvia Rivera, non si sono chiesti se la loro ribellione desse fastidio o urtasse la sensibilità di acuti pensatori quali il Di Battista. Ecco perché è giugno il mese dei Pride, che ci saranno in varie forme anche quest'anno nonostante il virus. E voglio anche ricordare a tutti che il Pride è una protesta. Quindi i metodi della protesta li scelgono quelli che protestano, non quelli che poi in Parlamento affossano le leggi per il matrimonio egualitario o la stepchild adoption. E anche chi se ne frega se gli dà fastidio o lo trovano volgare. Ed è una protesta per il semplicissimo fatto che le persone omosessuali non hanno gli stessi diritti di tutti gli altri, nonostante i passi fatti negli ultimi anni in questo paese. Perché è dell'altro ieri la notizia di due padri con due figli di 4 e 5 anni che all'ingresso del parco acquatico Blue Paradise di Orbassano si sono sentiti negare lo sconto famiglia perché, secondo la cassiera, non erano una coppia, cosa che invece per la legge sono. Ecco, le leggi servono, ma poi serve anche educare alla loro applicazione, perché altrimenti diventano solo materia di processi e mai di eguaglianza reale e vissuta. Una legge contro l'omotransfobia serve a colpire proprio questi atteggiamenti di discriminazione quotidiana e violenta. Mi sembra molto giusto quello che hai detto e lo condivido, soprattutto perché, appunto, fatta la legge bisogna fare anche coloro che la rispettano, no, la legge, altrimenti rimaniamo sempre allo stesso punto. Lo stesso vale per i diritti delle persone, ma anche per i doveri, no? Pagare le tasse, per esempio. Adesso possiamo legiferare finché vogliamo, ma finché la gente non le paga, possiamo averle, insomma, rimarranno soltanto leggi, e invece bisogna assorbirle, farle proprie. O invece, parlando di persone che hanno dimostrato, riparto dall'inizio, no, del tuo intervento, persone che dimostrano altri talenti, io ho goduto moltissimo, sì, nel Venezia, però su questioni molto più leggere, più allegre, più divertenti. Mi è molto piaciuto il video in cui il ciclista Peter Sagan si esibisce come visitatore della Pinacoteca di Brera. Questo è uno spot in vista del Giro d'Italia. Beh, molto divertente, ha avuto un sacco di visualizzazioni, ma correttamente. Lui si dimostra un grande attore, cioè da ciclista diventa anche attore, e questo, devo dire, no? ci ha svelato un mondo, e per lui forse una carriera futura, chi lo sa, magari. Non so se tu l'hai visto, però nel caso tu non l'avessi fatto, provaci. Mi sembra una grande idea. Molto, molto divertente. Lui visita la Pinacoteca, fa anche un po' la morale alla come si chiama, colei che, insomma, spiega, no, si è davanti ai quadri, si dilunga, e poi ovviamente finisce col chiudere sul Giro d'Italia. Sai che abbiamo già un ascoltatore in linea per il quiz, prepariamoci. Buongiorno Guido. Buongiorno a voi. Lei chiama dalla provincia di Lecco, giusto? Sì. Benissimo, allora noi adesso le proporremo il nostro quiz, eccolo qua, l'ho trovato anch'io, che però non parla di Lecco e neanche di montagne, bensì parliamo di ricercatori della Università del Colorado. Hanno individuato il luogo in cui si può respirare l'aria più pulita del mondo, priva di sostanze inquinanti prodotte dall'uomo. Dove si trova quest'area? Risposta numero 1, a Mozzanica, in provincia di Bergamo, esattamente tra via Rino e via Europa Unita. Ma anche numero? Sarà il 2 o il 3, perché qui tra via Rino e via Europa Unita. Allora, risposta numero 2 invece, nell'oceano Antartico, oltre i 40 gradi di latitudine sud. E la risposta numero 3 è nelle parole degli innamorati, che, dice il poeta, sono come aria fresca. Quindi dove si trova quest'area, il luogo dove si respira l'aria più pulita del mondo? A Mozzanica, con un indirizzo molto preciso, nell'oceano Antartico a 40 gradi di latitudine, oppure nelle parole degli innamorati? Rimane il 2 o il 3, fisicamente diciamo che è il 2, però dal punto di vista umanistico e relazionale è lì bisogna capire come Andrea Piana l'ha interpretata, cioè colui che ha scritto questo esatto, quiz, se era metaforico concreto. Metaforico potrebbe anche essere la terza, però fisicamente dovrebbe essere solo la 2. Dai, cosa dici allora, facciamo la 2? 2. Ed era la risposta esatta, direi anche con un tentativo che per questo inizio d'estate di farlo abbastanza semplice questo quiz, possiamo dire, nel senso che sì, è giustissima la disamina fatta sulla questione delle parole, però insomma il luogo è nell'oceano Antartico, oltre i 40 gradi di latitudine sud, e lì c'è l'aria più pulita del mondo. E allora lei vince un libro molto che le... Grazie a lei. Invieremo prossimamente, verrà ricontattato ovviamente dal nostro centralino per tutti i dati e per la spedizione. Grazie ancora Guido, buon fine settimana. Buona giornata. Buona giornata a lei. Adesso abbiamo la viabilità, torniamo tra pochissimo per parlare di borghi, di festival letterari sui borghi alpini. Dai. Si può fare. Ascolta, è il momento di riaccendere i motori. Con Iveco Daily ripartire è più facile. Bastano poche semplici mosse. Scegli subito il daily più adatto a te, lo ritiri e inizi a pagarlo tra 6 mesi. Nuovo daily, cambia prospettiva al tuo business e riparti con Iveco. Richiedi un preventivo alla tua concessionaria o chiama l'800 800 288, o visita il sito iveco.it. Offerta valida fino al 31 luglio. Fogli informativi e condizioni presso le concessionarie aderenti e salvo approvazione Iveco Capital. Iveco, l'Italia che vince. Digli di comprarsi un daily. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Di giugno, quindi oggi, riparte Borgate dal Vivo 2020, primo festival delle borgate e dei piccoli comuni alpini. Ne parliamo con Alberto Milesi, che è il direttore artistico di questo festival. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Tutto pronto allora per stasera? Si parte? Tutto pronto, si parte. Siamo molto contenti di ripartire con questa quinta edizione. Quest'anno non è stato semplice, ma ci siamo, ecco. A rivedere le stelle, avete scelto Dante, no? Come motto per questa ripartenza. Abbiamo scelto Dante, abbiamo scelto questo verso, l'ultimo verso dell'Inferno della Divina Che peraltro Commedia. Io mi ripeto da mesi, torneremo sì. A rivedere le stelle. Ma per questo stesso motivo l'abbiamo scelto noi, no? Un po' per dire come Dante si è lasciato l'inferno alle spalle, anche noi ci lasciamo questo periodo difficile per tutti quanti, e allo stesso tempo è un richiamo anche alla natura del nostro festival, che è tutto in eventi serali, all'aria aperta, quindi sotto le stelle. Dunque, ma che cosa avviene, ecco, in questo festival? Cioè, che cosa avviene, nel senso che siamo abituati alla nuova formula dei festival, per cui sono la maggior parte online, invece il vostro festival, se ho capito bene, oggi sarà una serata anche online, e soprattutto online, ma tutti gli altri eventi invece saranno dal vivo. mantenendo tutte le regolamentazioni del distanziamento vari, giusto? Esattamente, esattamente. Questa sera unico evento online, streaming, sarà solo online purtroppo, ma già da domani ricominciano tutti gli appuntamenti in presenza con il pubblico, come avete ricordato voi, rispettando il distanziamento sociale, tutte le prescrizioni del caso. Ma questa sera saremo in streaming invece dalla Sacra di San Michele, che è un posto incredibile del Piemonte, sì, posto incredibile, davvero da scoprire, e magari qualcuno che ancora non lo conosce potrà scoprirlo. Questo è un po' anche uno degli scopi del nostro festival, cioè portare grandi eventi, anche grandi nomi, in piccoli luoghi, però sempre molto molto belli, sparsi su tutto l'arco alpino occidentale. Bellissimo. Ma infatti, secondo me, se posso dire, secondo me c'è da approfittare di questo fatto, perché da un lato lei dice purtroppo il primo evento è online, ma in realtà c'è anche un lato positivo in questo. La Sacra di San Michele, che è un posto incredibile, incredibile, però ovviamente è anche un posto dalle dimensioni ridotte, avere la possibilità di avere una serata dove invece tutta Italia potenzialmente, tutti e 60 milioni, ma anche fuori dall'Italia, tutti possano assistere e vedere e aver voglia poi di venire a vederla davvero, perché io credo che le immagini non è che eliminino poi il desiderio di andare e vedere dal vivo e fisicamente le cose. Io penso invece che possa essere anche un vantaggio, non crede? Assolutamente, sarà uno spot, speriamo, anche per la Sacra, per questo luogo veramente fantastico che mi ha ispirato, perché io ho la fortuna di abitare, ecco, da casa mia non la vedo, ma poco ci manca, però di abitare in Valle di Susa e vederla quasi tutti i giorni, e proprio salendo dalla Sacra mi sono lasciato ispirare per realizzare questo evento di lancio, un evento molto simbolico che verrà poi ritrasmesso tra l'altro in tutto il mondo da Italia Festival e dal Ministero degli Esteri, che quest'anno promuoverà 11 festival italiani in tutti i centri culturali, le ambasciate italiane in tutto il mondo. Quindi la Sacra potenzialmente potrà essere vista, come hai ricordato tu, in tutto il mondo grazie a questa condivisione, e speriamo possa essere uno spot anche per rilanciare questo monumento straordinario. Che finalmente, adesso sentendo anche quello che poi sarà l'impegno del Ministero degli Esteri nei consolati, nelle ambasciate, quindi non solo food, ecco, c'è anche questo evento tra quelli che verranno diffusi all'estero, un evento sì, che nasce come letterario. Sì, è un festival che è nato come piccolo festival letterario qua in Valle di Susa, su 13 comuni, eravamo in 13 piccole borgate, siamo andati a riaprire allora le vecchie scuole proprio delle borgate, abbiamo portato degli scrittori. Quest'idea di tornare nelle piccole borgate, nei piccoli comuni, è piaciuta moltissimo, infatti già dalla seconda edizione nel 2017, da solo la Valle di Susa siamo passati già a toccare Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta, perché insomma questa idea piaceva al pubblico, piaceva alle amministrazioni, e quindi il festival è cresciuto man mano in maniera esponenziale. Se pensiamo che questa è solo la quinta edizione, comunque mi sembra di averne fatte già 40, invece siamo solo alla quinta edizione. È la fatica quella, è la fatica quella, non si preoccupi. Ah, giusto, allora. Sì, quindi insomma sicuramente lo scopo è quello giusto secondo noi, quindi di riportare l'attenzione. Poi naturalmente abbiamo un po' allargato il concetto di borgata a un concetto più ampio, no, di luoghi periferici, perché proprio per esigenza gli ospiti crescono, il pubblico cresce e non possiamo stare solo più nelle piccole borgate, ma comunque in comuni su tutto l'arco alpino, tra Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, e tocchiamo anche la Lombardia. Siamo contenti perché quest'anno pensavamo di non poterla toccare per tante ragioni, invece avremo un evento anche quest'anno lì a Madesimo. E quindi siete in espansione, molto bene, questo ci piace. Ma le chiedo una cosa, le chiedo una cosa rapidamente, non pensa che potrebbe anche essere un po' la rivincita di questi luoghi di cui lei si occupa da molti anni? Cioè un po', visto che in periodo di virus, dove tutti vogliono un po' andare in vacanza, ma magari non ci si fida ad andare nei luoghi di grande assembramento, forse uno fra Rimini e la Val di Susa sceglie di più la Val di Susa, quindi mi chiedevo, ma potrebbe essere anche occasione anche per il vero turismo? Ma già così, in realtà è una tendenza comunque sia per il turismo, sia per comunque una ricerca di vita sociale e dal punto di vista climatico migliore, è già una cosa che sta avvenendo. Quest'anno avverrà ancora di più, ma in realtà lo stiamo già vedendo, perché alcuni comuni della Val di Susa alcuni assessori mi dicevano che a maggio sembrava Ferragosto, quindi in realtà quest'anno ancora di più questi luoghi saranno scelti dal pubblico, anche dal nostro pubblico, perché comunque ci saranno delle condizioni ambientali migliori, si sta più freschi, anche distanziamento sociale, in montagna sicuramente è più semplice che in città, e anche rispetto al mare, mi viene da dire. Certo, allora noi ci dobbiamo salutare, però ricordiamo a tutti che questa sera appunto inizia il Festival Borgate dal Vivo 2020 con la diretta dalla Sacra di San Michele, e quindi in bocca al lupo a voi per questa nuova avventura. E, Carlo, ci ritroviamo dopo GR24. Certo che sì, a dopo. Il segnale orario vi è offerto da Blumatica, il software scelto da ingegneri, architetti, geometri, geologi e periti. Si può fare. Cronache da un paese migliore. ...824-0024 è il numero verde per contattarci, partecipare al nostro quiz, come sempre a Radio 24, 349-238-6666 è il numero invece per SMS e WhatsApp, con cui potrete anche magari commentare il tema di cui parleremo tra pochissimo con Marco Morelli, che è già in collegamento con noi. Buongiorno. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Allora, lei è docente presso la LUISS di Roma, ma ha una lunghissima carriera che, non so, facciamo veloce col dire che l'ultima posizione è stata quella di amministratore delegato della Banca Monte dei Paschi di Siena fino al maggio scorso, e quindi una lunghissima carriera che l'ha portata a frequentare moltissimi uffici, da cui è nato questo volume Capi, Colleghi, Carriere, Questi Sconosciuti. Allora, è un manuale semiserio, no? Così lo possiamo definire. Sì, direi è un qualcosa che chiunque di noi può di fatto scrivere, perché ognuno di noi la mattina va a lavorare, incontra tanti colleghi e incontra tanti comportamenti diversi, quindi è un po' un lasciare una testimonianza di che cosa uno può incrociare durante la sua giornata. Allora, la sentiamo un po' a strappi, quindi adesso magari riproviamo a chiamarla. Io intanto do lettura di qualche, ritratto che lei dipinge. Il capo visionario, ad esempio, un entusiasta seriale, il bicchiere per lui è tendenzialmente sempre mezzo pieno. C'è una bellissima illustrazione anche del visionario, un uomo vestito da ufficio con tanto di mantello rosso che punta il dito verso il cielo. Le illustrazioni sono di Lelio Bonaccorso, di questo volume, che è pubblicato da Gribaudo. Oppure c'è anche Carlo, il capo coccodrillo. Io non so se tu ti riconosci in qualcuno di questi o se hai conosciuto lungo il tuo percorso qualche capo di questo tipo, il capo protagonista, il capo enigmatico. Carlo. Ma di capi se ne incontrano di tutti i tipi, sicuramente li ho studiati molto, perché scrivendo per Camera Caffè, diciamo, i tipi di capi erano un po' uno dei nostri temi caldi, quindi partendo, diciamo, soprattutto, diciamo, tutto ciò che è gerarchia, tutto ciò che era vita d'ufficio, quindi quando arriva un nuovo capo, quando arriva il manager che invece vuole essere quello simpatico e amico di tutti, però poi dopo ti frega all'assemblea dei soci, insomma, dipende. Marco Morelli, molti, vede ma che anche ho studiati molti. Sì, Marco Morelli è di nuovo in linea con noi, vero? Sì, certo. Ah, adesso la sentiamo molto meglio. Sì. Dicevo, Carlo Gabardini se ne è occupato un po' più per Camera Caffè, quindi per questioni televisive. Lei l'ha messo nero su bianco con delle bellissime illustrazioni. In tutta la sua vita lei, non so, che capo si è sentito un po', se lo può dire, adesso che tanto è fuori da quella... Allora, secondo me lo dovrebbero dire le tante persone che hanno lavorato con me, perché... aspettiamo che scrivano dei libri, infatti. Esatto, ma infatti lo spirito è quello di lanciare un po' un messaggio, e poi sono sicuro che chi lo legge può arricchire i profili che sono stati illustrati. Magari ognuno di noi descrive un capo con la stessa etichetta in modo diverso, oppure ne descrive altre tipologie. Io ascoltavo quello che stava dicendo lei, alcuni dei riferimenti suoi sono infatti descritti nel libro: il capo amico di tutti, il capo che si certo. sente capo dal primo giorno che lavora ed è convinto che debba avere un riconoscimento nelle 48 ore successive. Quindi questo è un po' lo spunto, perché poi alla fine noi passiamo tantissimo tempo a lavorare, ma la cosa ancora più sorprendente è che quando non lavoriamo passiamo tantissimo tempo a raccontare cosa abbiamo visto durante la giornata lavorativa, anche nei momenti in cui magari dovremmo pensare ad altro. Ma lei lo sconsiglia, quindi, un po' quello di portarsi il lavoro fuori dal lavoro? Io non è che lo sconsiglio, perché poi ognuno di noi vive in un modo diverso le esperienze e le relazioni umane, no? Io quello che consiglio di fare è cercare di comportarsi da persona normale, un po' indipendentemente dall'etichetta, dal titolo, dalla posizione che uno ha nell'ambiente di lavoro in cui si trova, perché comportandosi da persona normale, secondo me, si vive molto meglio. Beh sì, questo senza dubbio, se uno ha il coraggio di comportarsi da persona normale, perché poi anche lì significa ammettere, no, delle mancanze o ammettere delle necessità. Non so se tutti i capi lo vogliono fare, ma neanche tra colleghi lo si vuol fare. Lei poi parla molto anche dei colleghi, e anche lì la sincerità non è sempre, no, dappertutto. Ma lì entriamo, secondo me, in un mondo ancora più profondo, perché il capo, io quello che racconto sempre, il capo noi non lo scegliamo, lo troviamo. Colleghi è un mondo un po' diverso, perché poi ognuno di noi ha delle affinità particolari con qualcuno e quindi magari decide di crearsi uno spazio tra cosiddetti colleghi che è un po' più vicino alle sue corde. Dopodiché, come diceva lei, le dinamiche tra persone che magari occupano la stessa stanza, lavorano nella stessa unità o nello stesso gruppo sono ancora più interessanti da osservare. Però adesso che lavoriamo tanto in smart working a casa, forse cambierà qualcosa se continueremo così. Diciamo che abbiamo vissuto un periodo in cui siamo stati forzati ad adottare un comportamento di un certo tipo. Poi sul fatto che si possa definire smart questo modo di lavorare, io credo che sia da vedere. Noi siamo stati costretti, tra virgolette, a lavorare in un modo diverso sostanzialmente da casa. Allora, smart è un concetto un po' più ampio, quindi bisogna capire adesso le dinamiche comportamentali, le relazioni personali, come cambieranno alla luce del fatto che tutti quanti in questi tre mesi siamo stati abituati a fare le cose in modo diverso. Io sono convinto, ma ripeto, è un'opinione molto personale, che il contatto umano, il rapporto umano, il riuscire a parlare e a comunicare avendo le persone di fronte continuerà ad essere prevalente e continuerà ad essere l'unico modo per cercare di trarre tutti vantaggio dal periodo della giornata in cui lavoriamo. I tipi umani in fondo poi sono un po' sempre quelli. Allora, nel ringraziarla io voglio riscordare agli ascoltatori: capi, colleghi, carriere, questi sconosciuti. L'editore è Gribaudo, i proventi dell'autore verranno devoluti alla Fondazione Don Gino Rigoldi. Grazie a Marco Morelli per essere stato con noi, buon proseguimento, buona giornata, a presto. Grazie a voi, a presto. Grazie mille, arrivederci. Si può fare. Promo 24. Devi gestire il personale in smart working? Hai bisogno di software innovativi per automatizzare i processi aziendali? Gruppo Centropaghe, leader nei software e nei servizi per la gestione del personale e nell'innovazione tecnologica per il tuo business. Da sempre al fianco di professionisti e aziende. Il partner giusto per la tua realtà, grazie a una suite completa di applicativi in service che rispondono e si adattano alle più svariate esigenze del mercato HR. Una procedura paghe nativa web di ultima generazione e app dedicate alle aziende e ai singoli dipendenti. Scopri la soluzione giusta per te. Centropaghe.it. Gruppo Centropaghe. Un unico partner, mille risorse. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Darkest of night with the moon shining bright. There's a set going strong, lot of things going on. The man of the hour has an air of great power. The dudes have envied him for so long. Un ascoltatore scrive: io spero proprio che non diventi una regola lo smart working, perché serve contatto, serve confronto, servono rapporto e condivisione, immagino. Non riesco a leggere la fine di questo messaggio, ma comunque in larga misura condivido. Carlo, poi tu hai un mestiere intellettuale, insomma c'è bisogno di vedere le cose, di parlare con la gente, la battuta non è difficile che venga fuori in un incontro via mail o su Zoom. Ma sì, credo che servano entrambe le cose, nel senso che da un lato sicuramente c'è il fatto della compresenza fisica, dall'altro, visto che parlavamo in un libro di capi, a volte sono proprio i capi che necessitano di avere tutti intorno per poterli controllare, invece uno può tranquillamente lavorare da casa. Se deve compiere una certa quantità di lavoro, poi la compie quando vuole, l'importante è che venga fatto, e forse non c'è bisogno delle 8 ore, del fatto di stare dietro a un vetro anche controllati come in un panottico. Quindi dipende, penso che esistano entrambe le cose, come sempre ci sono storture in entrambe le cose. Insomma, ho sentito che in questo periodo di lockdown anche della fisioterapia è stata fatta via Skype. Ecco, la fisioterapia via Skype credo che sia, è ovvio che è un adattamento, è molto difficile, è ovvio che il contatto fisico serve. Certo, allora chi diciamo non può in una certa misura lavorare in smart working è sicuramente chi si occupa di natura e di ambiente, come ad esempio Silvia Sini, che è docente di scienze della terra dell'Università di Pavia, è responsabile in particolare di un'iniziativa di cui parleremo tra pochissimo. Buongiorno professoressa. Buongiorno. Allora, per voi lo smart è impossibile, no? Bisogna andare sul campo, per l'appunto, a vedere le cose come vanno. Direi proprio di sì, infatti ci stiamo scatenando in questo periodo dopo il lockdown. Tra l'altro siete sicurissimi, nel senso che siete da soli, no? O comunque ecco, larghi. Io comunque, esattamente, siamo in gruppo perché comunque ci vogliono magari più competenze, però insomma c'è il distanziamento e direi che siamo open air, e quindi direi che insomma problemi in quel senso non ce ne sono. Allora, lei con l'Università di Pavia avete ottenuto un finanziamento europeo per un progetto che si chiama Restauro delle praterie e delle brughiere xeroacidofile continentali in siti Natura 2000 del Piemonte e della Lombardia. In sostanza sono quelle aree, diciamo, che possiamo immaginare quelle un po' da barbecue, magari, per farsi capire? Vicina alle città, non solo, direi soprattutto per rave party, motocross. Rave party e motocross, che però sono aree naturalisticamente importanti, che non vanno trascurate. Sono dei corridoi verso ad esempio i parchi, sono dei corridoi dall'interno delle nostre città verso l'esterno. Ah, non solo, sono in realtà delle aree, non dei corridoi, occupano anche delle superfici abbastanza importanti e non sempre sono vicino alle città, sono comunque immerse anche loro talvolta nella natura, circondate magari da boschi o da campi, da coltivazioni. E come le ripristiniamo, come le teniamo da conto? Di che problemi soffrono? Allora, i problemi di cui soffrono fondamentalmente è che, proprio perché sono ambienti aridi, sono sempre stati considerati poco utili per l'agricoltura, quindi non essendo utili in questo senso, sono stati abbandonati oppure soggetti a questi utilizzi un po', come dire, poco adatti alla loro conservazione. Spesso sono stati anche proprio distrutti e frammentati per far posto appunto alla urbanizzazione. Con questo progetto, che appunto è finanziato dal programma LIFE dell'Unione Europea, noi vogliamo andare a fare degli interventi per portarli a uno stato di conservazione favorevole. Questi interventi sono di vario tipo, vanno diciamo da attività di sfalcio e di erbacee che nel frattempo sono diventate, specie erbacee, sono diventate troppo invadenti e entrano troppo in competizione con quelle che dovrebbero essere le specie più invece caratteristiche. Si va anche a tagliare delle specie legnose che lo stesso, appunto, lasciandole abbandonate, hanno fatto entrare arbusti e alberi, a volte nativi, tipici del nostro territorio, ma molto spesso, perché siamo in pianura, non native, quindi alloctone, come per esempio la robinia, la quercia, certo, rossa, piuttosto che il prugnolo tardivo. Qual è il problema di queste specie non autoctone? Cioè, se sono aree, diciamo, di tutti, il fatto che arrivino delle altre specie non può anche essere un vantaggio? Ma competono con quelle native, quindi vanno a deprimere quella che dovrebbe essere la biodiversità tipica delle zone. Poi, essendo molto banali, si sviluppano in maniera veramente molto incontrollata e vanno proprio un po' a banalizzare il paesaggio, nel senso che poi si trovano solo queste e non riusciamo più a trovare specie nostre che invece sono molto, così, a parte belle, ma molto più variegate. Credo che oggi tutti abbiamo capito che gli ecosistemi devono essere mantenuti il più diversificati possibili per essere più resistenti a qualsiasi tipo di attacco e alle calamità naturali. Quindi ma stiamo parlando di aree pubbliche, giusto? Aree pubbliche che stanno dentro enti parco, a volte qualcosa anche privato, appartiene fino a, comunque sono di comuni, a volte alcune potrebbero essere anche private. L'idea infatti è coinvolgere chi ha queste aree private. Per esempio uno degli habitat target del progetto è la brughiera. Dentro l'aeroporto di Malpensa c'è un sacco di brughiera. Sì, io l'ho scoperto pochi anni fa, devo dire, sì. Credevo che la brughiera fosse qualcosa di altri paesi, no. E invece la brughiera ce l'abbiamo anche noi. No, infatti noi abbiamo assolutamente contattato Malpensa, abbiamo la lettera di supporto, perché arrivando a trovare anche delle modalità di gestione che siano a favore della conservazione, vorremmo poi con loro anche intavolare un discorso e dire: guardate, loro già fanno degli sfalci, perché comunque sono costretti, per tenere le piste libere, a mantenere ovviamente questa vegetazione bassa, però magari con certi accorgimenti si riesce a favorire di più la biodiversità e far sì che entrino anche altre specie tipiche di questo ambiente. Quindi in realtà, ma non sono aree però aperte al pubblico, cioè questa di Malpensa, sì, non è un'area, no, dove io posso andare, o è un'area, no, aperta? No, questa di Malpensa no, perché siamo, quindi è privata, sì, dell'aeroporto di Malpensa, all'interno dell'aeroporto. Sì, però invece molte altre sono all'interno dei parchi. Infatti noi abbiamo 3 enti parco che sono partner del progetto, poi abbiamo anche il sostegno di altri parchi che non sono entrati come partner ma come stakeholder, che pure hanno queste aree e sono pubbliche, per esempio appunto nel Parco del Ticino, sia quello lombardo sia quello piemontese, piuttosto che il Parco delle Groane o il Parco delle Vause che c'è in Piemonte. Cioè ci sono parchi che le hanno pubbliche, che sono visitabili, anzi noi vorremmo con questo, certo, progetto valorizzarle e anche stimolare delle attività di fruizione di queste aree, però una fruizione che non sia quella che dicevo prima, appunto andare a fare il rave party piuttosto che appunto… E quindi la fruizione, diciamo, desiderata da voi quale sarebbe? La fruizione desiderata nostra sarebbe ovviamente una fruizione che rispetto alla quale le persone girano stando nei sentieri e non stando magari attraversandole appunto con mezzi motorizzati o calpestarle troppo. E soprattutto a noi piacerebbe sviluppare le attività che adesso vanno molto di moda, che sono quelle di butterfly watching, oppure comunque osservazione degli insetti impollinatori, andare comunque a scoprire anche le piante belle che ci sono, perché in alcuni siti o brughiere o prati aridi, ci sono delle specie selvatiche erbacee che sono veramente anche molto belle dal punto di vista estetico. Ma ho sentito, ho letto insomma che ci sono anche specie che potrebbero in qualche misura essere anche utili, cioè io immagino come per principi attivi che hanno le stesse, sì, no? Sì. Sicuramente in assoluto i prati, le praterie sono tra gli habitat più ricchi di specie officinali rispetto per esempio non so, a dei boschi o a delle zone umide e tra l'altro una particolarità di questi prati aridi che sono oggetto del progetto è quello che diciamo rispetto al quale noi vogliamo intervenire è quello anche di promuovere, conservare, valorizzare una componente che spesso è molto discriminata che è una componente fatta di muschi e licheni, cioè una cosa molto carina di questi prati è che hanno questi strati di muschi e licheni molto particolari e per esempio adesso recentemente ci sono degli studi su un particolare genere di lichene che contiene un principio attivo, un acido usmico che ha delle applicazioni anche in medicina molto molto utili, ma quindi abbiamo un potenziale diciamo così officinale sia da parte dei licheni sia soprattutto da tante piante vascolari, per esempio c'è l'iperico, questi prati spesso sono ricchi di iperico, che credo che più o meno tutti conoscono l'erba di San Giovanni, che comunque è utilizzatissima, ma oltre a questo noi... Non mi fiderei così tanto, diciamo, io sicuramente non la conosco perché sono un po' ignorante. Non lo conosco, però è abbastanza comune. Però appunto lo scopo di questo progetto è intanto andare a valutare bene quali specie ci sono con potenziale officinale e poi ovviamente promuoverle, infatti comunque per esempio abbiamo avuto anche in questo caso la lettera di supporto della Federazione Erboristi Italiani, cioè ci possono essere degli interessi veramente legati alla conservazione di questi habitat, in primis la biodiversità, ma poi se gestiti in maniera opportuna anche tutta una serie di benefici, di servizi che possono offrire che vanno a vantaggio della comunità. Benissimo, allora voi andate e ripiantate, poi grazie. Dopo ci racconterete com'è andata, come procedono le cose. Siamo al primo anno, ce ne sono altri 4 davanti, sì, no sì, professoressa? Esatto. Quindi sì, tempo sì, ce n'è per tirare le somme, insomma. Buona giornata davvero Silvia Assini, Università grazie di Pavia. Grazie mille per l'invito, grazie davvero e buona giornata a tutti quanti. Grazie abbiamo a lei, una buon sabato. Piccola pausa e poi torniamo insieme. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E siamo pronti per un nuovo quiz, ci ha chiamato Miriam da Roma, buongiorno Miriam. Buongiorno. Buongiorno, pronta? Buongiorno. Sì, prontissima. Ha presente no, come funziona? Leggiamo 3 possibili risposte, lei ci deve dire qual è il finale corretto della notizia. Ok. Allora, il piccolo comune di Luserna, in Trentino Alto Adige, offre case in affitto gratis a chiunque voglia viverci, chiede solo una cosa in cambio, quale? Risposta numero 1, che chi si trasferisce abbia almeno la terza di reggiseno. Risposta numero 2, che chi si trasferisce svolga delle attività di volontariato per il benessere di tutti. Risposta numero 3, che chi si trasferisce sappia suonare almeno uno strumento a fiato con il naso. La numero 2. Direi senza con una giustissima e comprensibile sicumera. No, ma io non lo so. Cosa aveva bevuto Andrea quando preparava il quiz? Giustamente si sta occupando di scrivere dei quiz abbastanza semplici, quindi le trappole erano semplici. La terza di reggiseno, suonare uno strumento con il naso oppure volontariato per il benessere di tutti, che è la risposta corretta, per cui vengono date case gratis in Trentino ed è un progetto pilota per evitare lo spopolamento di alcune zone montane. Quindi ci sembrava una bella notizia anche perché fa anche il paio con quello di cui abbiamo parlato prima del Festival dei Borghi. Esatto, esatto. Grazie molte Miriam, allora la ricontattiamo per l'indirizzo e per le spediremo ovviamente un libro. Chi vuole può telefonare ancora. Laura, Dimmi. Perdonami, devo solamente ringraziare e salutare il signor Enrico, che è un nostro ascoltatore, che mi fa i complimenti per la scrittura dei testi di Camera Caffè. Mi sento in dovere di dirle che abbiamo letto il suo messaggio, perché al terzo, quarto o quinto messaggio che manda di scrivere, in completo, e allora volevo fargli sapere che l'abbiamo letto e che ci ha fatto molto molto piacere. Stia sereno, è arrivato, anche se a pezzi, ma è arrivato tutto. Allora, abbiamo parlato prima di zone un po' lontane, un po' più naturali. Adesso parliamo di campi, di agricoltura, di precisione, e lo facciamo con Mario Vigo, l'ideatore del Combi Mais, ma adesso ci diciamo insieme che cos'è esattamente, dell'azienda agricola Folli. Stiamo parlando della provincia di Milano, Mediglia se non sbaglio. Buongiorno Mario Vigo. Buongiorno a tutti voi e buongiorno anche agli ascoltatori. Allora, ci piaceva parlare con lei, presentare la sua esperienza agli ascoltatori, perché lei è partito 7 anni fa con questo protocollo di agricoltura di precisione, molto controllato, molto sofisticato, con il controllo delle università, un sacco di esperti, e siamo arrivati al Combi Mais 7. All'epoca, quando lei partì, era una sperimentazione che si faceva in vista dell'Expo, che era il 2015, e lì si portavano proprio i turisti, no, a vedere come si faceva questo tipo di agricoltura. Dopodiché è diventato il suo modello di produzione, corretto? Correttissimo Laura, direi che hai identificato benissimo la cosa. Un progetto che nasce alla vigilia di Expo per tanti motivi, e soprattutto per interpretare i temi di Expo: energia per la vita, produrre per il pianeta. Diciamo che siamo partiti allora con un percorso, diciamo, di semplicità ma anche di produzione, per poi arrivare a oggi, che direi che oltre alla storia è anche una filiera completa, che amiamo chiamare dal chicco alla tavola, perché con la creazione di una filiera di farine e di prodotti da forno abbiamo completato un percorso iniziato anni fa. Esattamente, quindi voi ormai avete questo tipo di produzione, che ho detto correttamente, no? Di precisione, con tutta una serie di controlli, che vi porta a un grande risparmio idrico. Assolutamente. E una grande resistenza anche nei confronti delle avversità climatologiche. Questi anni ne avete avuti di tutti i tipi, dalla siccità e le alluvioni, e i parassiti, le muffe, mi ricordo un po' di tutto. Esattamente, sì, beh, diciamo che il cambiamento climatico... Mancavano solo le cavallette, o anzi, ci sono state anche le cavallette? Diciamo che le cavallette non le abbiamo avute, però siamo in grado di controllarle, perché proprio stamattina abbiamo fatto un trattamento alle piante. Però, insomma, se posso descrivere velocemente un po', certo, diciamo, la storia, allora nasciamo dai tempi di Expo e poi siamo arrivati a oggi. Direi che da quest'anno, che l'abbiamo chiamato 7.0 Evolution. Perché l'abbiamo chiamato Evolution? Perché dopo aver diciamo fermato nel 2019, cioè abbiamo ottenuto e abbiamo vinto Innovazione Agricoltura 2019 dal Ministero delle Risorse Agricole, da Confagricoltura, ci siamo posti il problema: ma ha senso continuare, sì o no? E dopo un'attenta, diciamo, esamina con tutti i partner, ci siamo detti sì, ha senso continuare. Perché Combi Mais è un concept che nasce per alimentare un processo di miglioramento continuo nella coltivazione del mais. Che il mais non è solo per l'alimentazione umana, no, adesso noi abbiamo parlato di biscottini, di polente, eccetera, eccetera, ma il 60% è per l'alimentazione degli animali, che poi dopo d'allevamento. Anche di più. Infatti la ricerca del Combi Mais è una ricerca, diciamo, totale, a 360 gradi, perché nella nostra produzione, addirittura al livello che siamo arrivati quest'anno, una parte che va per le farine, quindi per le polenti, una parte nuovissima che avrà la linea biscotti, con un mais anche molto, diciamo, adatto al benessere, per cui molti oggi... Attenzione al telefono, Vigo, che sentiamo un po' a strappi. Del benessere, e poi tutta la parte per sostenere la zootecnia italiana, che mi sembra ovviamente molto importante. Quindi diciamo che è assolutamente un progetto a 360 gradi. Senta, perché ma è un progetto che altri possono mutuare, copiare, come, oppure è un brevetto vostro, diciamo? No, diciamo che noi l'abbiamo fatto proprio con il concetto, quindi, che il progetto di Combi Mais è un progetto più corretto nella coltivazione, con una metodologia che deve ottenere la miglior qualità del mais per il consumo sia umano che zootecnico. E gli agricoltori lo possono applicare. Noi l'abbiamo messo a disposizione, portandolo ad Expo, l'abbiamo messo a disposizione per l'agricoltura italiana, ed è un progetto che andrebbe molto, molto più sviluppato dalle istituzioni. Faccio un esempio: sono passati 5 anni, quest'anno se non ci fosse stato il fronte avremmo avuto poco. No, sentiamo troppo male in questo momento. Sentiamo troppo male. Riproviamo magari a risentire, a riprovare la telefonata, se funziona meglio. Poi dopo, Carlo, io so che il dottor Vego è molto appassionato di Interes. Io gliela metterei lì magari una domandina, visto che condividete questa passione. Stiamo soffrendo. Mi sembra che sia molto... molto pericoloso. Come molto tema. Pericoloso, dici che non vuoi scivolare sì. Sulla questione, vabbè, calcistica, quindi restiamo anche sulla... Anche perché siamo interisti di una certa età noi, quindi siamo quelli che abbiamo vissuto gli anni 80-90, dove si vinceva per 6 mesi su 10 anni, insomma, abbiamo sofferto molto. Beh, lo so, però insomma, si soffre, ma poi si spera di non soffrire più. Sentiamo un po', Mario Vigo, di nuovo in collegamento? Sì, buongiorno a tutti. Va un po' meglio, direi. No, stavamo parlando di internet nel frattempo, Mario, però... No, ma al di là dell'Inter, io le volevo chiedere invece un'altra cosa, mi scusi. No, ma io parlo volentieri anche intanto... di Inter. No, lo so, ma sono anch'io interista, quindi soffriamo tantissimo. Ma senta, le volevo chiedere questo. Mi dica. Le volevo chiedere, siccome a noi sembra una grande storia la sua, un vero si può fare, e non è un caso che partiamo dalla questione di Expo, perché molto spesso quando si parla di manifestazioni come Expo, molti pensano che siano solamente delle vetrine, addirittura altri pensano che siano sprechi di denaro, alcuni giustamente credono che energia per la vita, energia per il pianeta, alla fine resti uno slogan vuoto. Invece non è così, e voi siete un caso di questo esempio. Ci ha anche descritto molto bene il fatto che dopo vi siete chiesti ma continuiamo o non continuiamo, e vi siete detti certo continuiamo, cioè è ovvio, servono dei soldi, degli investimenti, perché all'inizio è una sperimentazione, però adesso si sono raggiunti dei risultati ed è bene che tutti ne godano, e quindi di questo siamo molto contenti, del motivo per cui questa storia ci sembra una storia esemplare. La domanda forse un po' stupida che volevo fare, siccome quando sentiamo agricoltura di precisione, l'acqua, l'irrigazione, forse io un po' ingenuamente il pensiero che faccio sempre è Israele, il pensiero di innaffiare goccia a goccia con poca acqua, di modo da sfruttare tutto. Ecco, mi chiedo, l'Italia ha questo problema? Cioè l'Italia ha un reale problema di carenza idrica? Io sono assolutamente convinto di sì. Come dice lei, i cambiamenti climatici hanno introdotto un nuovo modo che noi abbiamo cercato di impostare di fare un'agricoltura, cioè l'agricoltura di precisione, l'agricoltura che io definisco virtuosa, cioè noi dobbiamo risparmiare ovviamente su tutto. Uno dei fattori fondamentali è l'acqua, e oggi diventa un fattore fondamentale anche nel mondo. Chi avrà l'acqua avrà la produzione, chi avrà la produzione avrà la possibilità di sfamare le proprie popolazioni. Quindi il continuo risparmio di acqua è un fenomeno importantissimo, che è anche poi applicato dall'Unione Europea, tant'è vero che nei prossimi anni ci sarà una misurazione continua di acqua, anche se noi assistiamo a un cambiamento climatico che probabilmente in certi momenti molta acqua, in certi momenti dei periodi di estrema quasi desertificazione. Siccità. Per esempio, per rimanere in quest'anno, noi abbiamo avuto un mese di novembre particolarmente piovoso come non mai, abbiamo dovuto rallentare tutte le semine dei cereali autunnali, e poi praticamente da novembre fino a aprile abbiamo assistito a un periodo completamente siccitoso. Lei si ricorderà nel periodo del lockdown, dove a marzo avevamo delle temperature che erano completamente anomale rispetto a una stagione normale. E per fortuna poi è arrivata la stagione monsonica delle piogge che ci ha permesso di entrare in campo. Ma noi dobbiamo essere risparmiosi e virtuosi, se no domani non saremo in grado di produrre l'alimentazione per i nostri cittadini. E quindi diciamo puntare molto sull'agricoltura di precisione, o come facciamo noi del ConviMind, dove abbiamo un'app per cui misuriamo il fabbisogno dell'acqua in base alla temperatura odierna e quanto noi ne diamo, vuol dire ridurre lo spreco. Certo, ci vorrebbe un grande impegno delle istituzioni, perché fare tutta questa rete idrica è complessa, è costosa, e grazie al sistema israeliano noi l'abbiamo potuto applicare in campi. È chiaro che ci vuole un intervento delle istituzioni, a partire dall'Unione Europea e dal nostro governo, il quale dovrebbe evidentemente finanziare questi tipi di agricoltura. Forse un po' meno chiacchiere, che sono passati 5 anni dall'Expo, e un po' più di fatti non farebbero male. Purtroppo è così anche sulla gestione delle acque più in generale. Bisognerebbe non solo fare le analisi quando c'è la crisi, ma poi dopo cercare di risolverle. Mario Vigo, grazie per essere stato con noi in questa occasione. Grazie mille, anche grazie di questa sintesi finale. Esatto, grazie a lei e grazie al Combi Mais che continuate a portare avanti. 7.0 Evolution, non so l'anno prossimo come lo potrete chiamare, Pro forse o Top. Ma ci lo vedremo, Laura. Cerchiamo di muovere qualcuno che riesca a dare un ulteriore upgrade. Tanto per restare in tema. 9.45, quindi significa il momento della viabilità. Si può fare. Promo 24. Per una ripartenza nel segno della salute e della sicurezza, Schindler, società leader nel settore degli ascensori e scale mobili, presenta Schindler Hygienic, la gamma di soluzioni innovative per scale mobili e ascensori sempre igienizzati e virus free. Dalla tecnologia a raggi UVC per la sanificazione profonda dei corrimani delle scale mobili e delle superfici interne degli ascensori, alla purificazione dell'aria in cabina, all'uso di speciali pellicole antibatteriche. Schindler ha pensato a tutto con un unico obiettivo: innovazione e tecnologia per ascensori e scale mobili sanificati e sicuri. Schindler Hygienic è l'ideale per uffici, hotel, supermercati e centri commerciali, ospedali, stazioni, aeroporti e non solo. Tutte le info su schindler-hygienic.it. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci al momento della classifica delle migliori buone notizie della settimana, a partire dalla quinta, che è questa. Pescara, pannolini gratis per un mese alle famiglie in difficoltà. Il comune infatti distribuirà gratuitamente pannolini alle famiglie che ne hanno bisogno. I pannolini saranno consegnati a domicilio dagli operatori di protezione civile, che attingeranno dagli elenchi di nominativi stilati durante l'emergenza coronavirus per l'erogazione di aiuti alimentari e per l'accesso ai servizi sociali gestiti dal comune. Si tratta di quasi 50.000 pannolini che saranno utilizzati per garantire un mese di fornitura a 301 neonati. Questa azione è stata resa possibile grazie a una interlocuzione con la Fater, che produce i pannolini, ha spiegato il sindaco di Pescara Carlo Masci. Al quarto posto c'è l'ambiente e ci sono ben due italiani vincitori del premio UE Antispreco, un'iniziativa di Slow Food per le scuole italiane e un'applicazione sulle attività green all'interno di Treviso. Questi i due progetti italiani che hanno vinto il premio della settimana europea per la riduzione dei rifiuti, assegnati oggi durante una cerimonia online organizzata dal Comitato UE delle Regioni. Al terzo posto, in Italia la propensione al consumo di frutta e verdura parte dai più piccoli. Servono frutta e verdura per dare una svolta salutare alla loro vita, come lo hanno capito i bambini, grazie all'Unione Europea e al programma Frutta e Verdura nelle scuole, coordinato in Italia dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Il progetto è rivolto annualmente a oltre 1 milione di bambini delle scuole primarie, dai 6 agli 11 anni, con partecipazione gratuita e ha come obiettivo, come dicevamo, lo sviluppo nei più piccoli di abitudini alimentari e modelli di consumo più sani e consapevoli. Come è noto ad ogni famiglia italiana, questo progetto consta nella distribuzione di tanti prodotti freschi e di qualità, corsi di degustazione, laboratori sensoriali, attività ludico-didattiche a tema frutta e verdura. Dall'attivazione del programma ad oggi i risultati evidenziano una crescente propensione al consumo dei prodotti ortofrutticoli da parte delle famiglie e dei bambini, anche in occasione di merende e spuntini. E partono le iscrizioni per l'anno 2020 e 2021 e quindi le scuole si iscrivano numerose. Al secondo posto il turismo. L'ONU sceglie l'Italia per la ripartenza. Buona notizia, perché sceglie l'Italia, che è uno dei paesi più desiderati dai viaggiatori di tutto il mondo, ma anche tra i più colpiti dalla pandemia. Per iniziare, proprio dal 1 luglio, giorno della riapertura dei confini esterni di Schengen, il Restart Tourism mondiale. Il segretario generale Zurab Pololikashvili, accompagnato dal direttore Europa dell'organizzazione, che è l'italiana Alessandra Alessandra Priante sarà infatti in Italia dal 1 luglio per una visita tra Roma, Milano e Venezia. Ci sembra un'ottima notizia anche perché il turismo, ricordiamo che in Italia vale il 13% del PIL. E fino al primo posto una notizia della quale discuteremo poi anche tra pochissimo: Google modifica privacy, dati cancellati dopo 18 mesi. Questo è il titolo. Più controllo agli utenti sulla privacy di alcuni prodotti, eliminazione in automatico dei dati dopo 18 mesi, navigazione in incognito più facile. Sono questi i principali aggiornamenti al via in tutto il mondo annunciati da Sundar Pichai, che è il CEO di Google. Mentre miglioriamo la privacy, la sicurezza dei nostri prodotti, continuiamo a farci portavoce dell'importanza di una regolamentazione equilibrata sull'uso dei dati in tutto il mondo, tra cui un'adeguata normativa sulla privacy negli Stati Uniti, ha detto Pichai in un post ufficiale. Per aiutare l'avanzamento di questo lavoro abbiamo pubblicato una proposta di quadro normativo basato su alcune leggi e modelli realizzati nel resto del mondo, come ad esempio il GDPR europeo, cioè, come ricorderete, la legge europea sulla privacy in vigore dal maggio 2018. Give me five. All right. Give me five. All right. One, two, three, four. Ed è in collegamento con noi Enrico Pagliarini, collega che si occupa, come ben sapete, della trasmissione 2024, ne è curatore e conduttore. Enrico, a te vogliamo chiedere qualcosa su queste novità introdotte da Google, tutto vero insomma? 5.000 cose vorremmo chiederti, Enrico, spiegaci tutto. Vai, buongiorno a tutti. Dunque, allora, innanzitutto diciamo che questa notizia la inseriamo in un trend che ormai ha trasformato l'attenzione alla privacy di alcune aziende, non di tutte, in un nuovo elemento di marketing. Soprattutto Apple e Google lo stanno facendo, direi che poi la lista si ferma abbastanza presto, e dico anche che... Quindi è un trend che si sono date tra di loro. Sì, sì, allora, spinte in modo particolare da due elementi. Uno è l'opinione pubblica, perché tutti noi siamo comunque c'è una grande maggioranza della popolazione che è sempre più attenta alla privacy. E poi va detto che questo avviene anche grazie alle autorità. Nel caso di Google non sapremo mai quali sono i retroscena, però ricordo che l'Authority per la privacy irlandese a febbraio ha avviato un'indagine sull'uso dei dati di localizzazione che fa Google. Quindi è plausibile anche che alcune mosse, alcune pedine, queste aziende le muovano per andare incontro alle richieste. Adesso siamo solamente alla fase, Enrico, di indagine. Sì, prego. Devo chiederti una cosa, perdonami, perché abbiamo pochissimo tempo, ma sono veramente curioso di questa questione. Ci spieghi che cosa significa? Cioè, che cosa vuol dire cancellare dopo 18 mesi? Stiamo parlando della cronologia, del fatto che io sono stato su un sito e non lo si saprà più, oppure di altro? Perché a me fa strano sentirmi dopo 18 mesi, perché io immagino che Google i dati li raccolga, li analizzi e poi è l'analisi che gli interessa, non gliene frega niente di avere i dati. Quindi che cosa cancellano realmente? Beh sì, comunque anche l'analisi storica ha un senso ed è importante. Allora, intanto dipende se tu hai attivato alcuni sistemi di tracciamento dei tuoi dati. Forse il più delicato è quello della localizzazione, cioè sapere dove sei stato. Certo. Anche in questo caso c'è una cronologia che può andare indietro o per sempre, perché puoi anche mettere come che non vengano mai cancellati, oppure adesso per i nuovi account, perché questo è importante, per i nuovi account o per la prima volta in cui tu attivi la cronologia delle posizioni, Google ti dice: noi in automatico cancelleremo i tuoi dati dopo 18 mesi. Tu però puoi andare nelle impostazioni, puoi dire no, cancellali dopo 3 mesi, oppure cancellali subito, oppure non archiviarli mai. Il problema è che se tu non li archivi mai, ad esempio nel caso della localizzazione, alcuni servizi che richiedono la posizione per funzionare non vanno. Però sì, stiamo parlando di dati tipo quelli della localizzazione, che ti fanno vedere dove sei stato sulla mappa, alcuni dati relativi, che ne so, alle tue ricerche su YouTube. Io questa mattina, giusto per andare a vedere com'erano i settaggi del mio account, sono andato a vedere 4 mesi fa quali video ho guardato su YouTube, cosa che mica mi ricordavo. E ecco, uno poi può andare, può intervenire. Sì, può intervenire, anzi io consiglio di andare, anzi anche a ricordare questo fatto che dobbiamo attivarci noi, nel senso che questo vale per i nuovi account, per tutti i vecchi account, ognuno di noi può andare e decidere quali impostazioni vuole fissare. Questo mi sembra importante ricordarlo. Sì. Io devo fare il censore però, perché dobbiamo chiudere necessariamente. Io vi saluto. Ciao. Grazie Enrico. Ma noi grazie lo dobbiamo risentire, Pagliarini, è sempre illuminante. Dai, la mettiamo in apertura, così abbiamo un'ora e mezza. Allora, grazie in redazione a Danilo Di Trani, Andrea Piana, Edoardo Lavezzari, in regia c'è Carmelo Lauricella. Da Laura Bettini, appuntamento a domani e ciao da Carlo Gavardini, ci sentiamo domani 8:30.